Questa è la storia della bella addormentata mimosa. Se vuoi, puoi leggere questo libro assieme a me. Quando sentirai suonare un campanellino, così, dovrai voltare pagina. Ed ora vogliamo cominciare? Tanto tempo fa, in un paese molto lontano, vivevano Re Stefano e la regina sua moglie. Un giorno, il loro matrimonio fu allietato dalla nascita di una bambina, cui dettero il nome di Aurora. Avevano tanto atteso un erede, ed ora l'arrivo di quella piccina li riempiva di gioia. Per festeggiare la nascita della principessina, arrivò gente dai paesi vicini e da quelli lontani, portando doni. Invitate d'onore erano tre buone fatine, Fauna, Flora e Serena. Esse giunsero con le loro bacchette magiche, pronte a offrire ad Aurora i regali più belli. Ciascuna, però, poteva fare un solo dono alla piccina. Flora regalò alla bimba la bellezza, perché potesse crescere ammirata da tutti. Fauna, invece, le fece dono di una bellissima voce, così che potesse cantare bene come un usignolo. La piccola fata Serena stava per offrire il suo regalo, quando improvvisamente si udì un terribile tuono. E una tempesta di vento mulinò nella stanza, mentre un lampo accecante si rifletteva sulle pareti. Ed ecco apparire la diabolica strega malefica. Avvolta nel suo nero mantello, gli occhi scintillanti, lo sguardo minaccioso, avanzò nel salone e si fermò davanti al trono del sovrano, dicendo: molto bene, Re Stefano. Non ho ancora placato la mia ira per non essere stata invitata al battesimo della principessina Aurora, ma ciò nonostante ho anch'io un regalo da fare alla tua bambina. La principessina crescerà piena di bellezza e di grazia, ma poi, al compimento del 16° anno di età, si pungerà un dito con un fuso e morirà. Oh no, non è possibile, fu l'urlo unanime che si levò da ogni cuore. Ma prima che qualcuno potesse dire qualcosa per convincere Malefica a ritirare la sua maledizione, la strega scomparve in un turbinio di fiamme. La situazione sembrava disperata, ma forse c'era ancora una speranza. Serena non aveva ancora fatto il suo dono alla principessina. La piccola fata si avvicinò ai genitori desolati e disse: Vostra Maestà, io non posso annullare la maledizione di Malefica, ma posso cercare di modificarla. Detto questo, Serena si avvicinò alla culla regale e, agitando la sua bacchetta magica, pronunciò queste parole: Dolce principessina, è fatale che quanto detto debba accadere, ma tu non morirai. Cadrai invece in un sonno profondo e potrai essere risvegliata solo da un bacio d'amore che spezzerà l'incantesimo. Il povero Re Stefano ringraziò la buona fatina, ma in cuor suo non si sentiva ancora abbastanza rassicurato per la vita della figlioletta. L'indomani prese una decisione. L'intervento di Fata Serena non annulla la diabolica minaccia di Malefica. Dobbiamo fare qualcosa. Che tutti gli arcolai e i fusi del regno siano requisiti e dati alle fiamme. Quella notte tutto il territorio del regno fu rischiarato dalla luce dei fuochi in cui bruciavano centinaia di fusi ed arcolai. Nel frattempo, le tre buone fatine stavano cercando di escogitare un piano per la salvezza della principessina. Fu Fata Serena ad avere per prima un'idea. Il fuoco non fermerà certo Malefica. Ci deve essere un modo per proteggere Aurora da quella vecchia strega malvagia. Ci sono. Potremmo allevare la principessina lontano da qui, in segreto, in un luogo tenuto nascosto a tutti. La terremo fuori dal pericolo fino al suo 16° compleanno. Il re e la regina tristemente acconsentirono. Travestite da semplici popolane, le tre fate presero la principessa e la nascosero in una casetta nel profondo di un bosco. La chiamarono Rosa Spina, invece di Aurora, e non le dissero mai la verità sulla sua nascita. E così, per 16 lunghi anni, nessuno seppe dove fosse Aurora. Proprio il giorno del suo 16° compleanno, Rosa Spina stava raccogliendo le fragole nel bosco, quando le accadde di incontrare un bellissimo giovane che cavalcava nella foresta. Egli fu molto gentile nel rivolgerle la parola. Lei rispose timidamente. Non aveva mai pensato di poter parlare con uno sconosciuto, ma le sembrava quasi familiare quel giovane straniero. Forse perché spesso, nei suoi sogni, aveva desiderato incontrare qualcuno così affascinante. Amore. Rosa Spina gli domandò di andare a casa sua nel pomeriggio per fargli conoscere la sua famiglia. Poi corse via per raccontare che si era perdutamente innamorata. Quando Rosa Spina parlò del suo amore con le tre buone fatine, esse diventarono tristi. Piccola cara, oggi è il tuo 16° compleanno e possiamo finalmente dirti la verità. Tu non sei la nostra piccola e cara Rosa Spina, ma la principessa Aurora. Devi sposarti questa sera nel castello di tuo padre, il re Stefano, con il principe Filippo, che ti è già stato destinato. Non devi vedere mai più il tuo affascinante straniero. Mai più. A queste parole, Rosa Spina scoppiò in lacrime. Nel frattempo, il giovane straniero era tornato al suo castello per riferire al padre che aveva appena incontrato la ragazza dei suoi sogni. Il giovanotto era in realtà proprio il principe Filippo. Quando raccontò la sua storia al padre, re Uberto, questi rimase sconvolto e faticò molto per riprendersi. Che cosa dici? Ti sei innamorato di una popolana? Non è possibile, te lo proibisco! Urlò il re Uberto nel reagire alla notizia improvvisa. Poi, visto che il figlio non si convinceva delle ragioni che gli elencava, continuò. Ho promesso al mio vicino, re Stefano, che avresti sposato sua figlia Aurora. Ricordalo, tu sei un principe e stai per sposare una principessa! Ma Filippo non poteva accettare le nozze e corse via verso la casetta nel bosco per incontrare il suo vero grande amore, Rosa Spina. Purtroppo non la trovò. Le tre buone fatine, infatti, avevano prudentemente portato via di nascosto la principessina verso il castello paterno. La povera Aurora era molto infelice. Non pensava ad altro che al suo perduto amore. Serena l'accompagnò nella sua stanza e le disse: coraggio, piccola mia. Non puoi farti vedere così triste da tuo padre. Ora ti lasciamo qualche minuto, giusto il tempo per asciugarti queste lacrime. Aurora restò sola, mentre le fate l'aspettavano fuori della stanza. Improvvisamente, una misteriosa voce cominciò a chiamare la triste principessina. Aurora! Aurora! Come in un sogno, Aurora, guidata dalla voce incantata, si lasciò condurre lungo una scala buia in cima a una torre. Fortunatamente, anche Serena aveva udito la voce diabolica. Ascoltate, è la voce di Malefica! E tutte e tre le fate presero a cercare la principessa in pericolo attraverso i corridoi e le sale del grande palazzo, chiamandola a gran voce. Rosa Spina! Rosa Spina! Non toccare nulla! Ma il potere di Malefica era ben più forte di loro. La diabolica strega incitava, come una voce uscita dalle tenebre, l'indifesa Aurora. Tocca il fuso, Aurora! Toccalo! E così Aurora avvicinò la mano per toccare il fuso scintillante e si pulse. Finalmente le tre fatine trovarono Malefica, ma, ahimè, era ormai troppo tardi. Povere illuse! Come potevate pensare di sconfiggere me, la regina di ogni maleficio? Eccola! Eccola qui la vostra preziosa principessa! E Malefica, sollevando un lembo del suo ampio mantello, mostrò loro Aurora che giaceva a terra in un sonno profondo. Poi, in un lampo di luce, scomparve. La sua profezia si era compiuta. Ora solo un bacio d'amore avrebbe salvato Aurora. Allora Serena esclamò: ebbene, nessuno dovrà sapere che la profezia maledetta si è avverata. Noi faremo addormentare tutti fino a quando Rosa Spina non si sarà risvegliata. Mentre le fatine propagavano il loro incantesimo per tutto il castello, udirono re Uberto che diceva: mio figlio Filippo ha perso la testa. Si è innamorato di una ragazza qualunque che si chiama Rosa Spina. Flora improvvisamente si rese conto che il giovane straniero incontrato da Rosa Spina altri non era che il principe Filippo. Mille miglia lontano da lì, intanto, Malefica stava complottando. Il principe Filippo è la sola persona al mondo che può rompere il mio incantesimo. Devo assolutamente trovarlo. Allora partì alla sua ricerca con una pattuglia di demoni e riuscì a catturarlo. Il povero principe fu gettato in una oscura prigione sotterranea. Ma le tre buone fatine volarono in aiuto del principe e riuscirono a liberarlo. Poi gli donarono uno scudo fatato e lo guidarono verso la principessa addormentata. Malefica divenne furiosa. Quando si accorse della fuga del principe e chiamò in aiuto tutti i suoi poteri per fermarlo, si trasformò in un drago dalla lingua di fuoco. Però le sue arti diaboliche non poterono nulla contro lo scudo magico e l'amore di Filippo per Aurora. Alla fine, la strega fu annientata. Con l'aiuto delle tre fate, il principe Filippo riuscì a trovare la piccola stanza nella torre dove giaceva la bella addormentata. Solo allora capì che la principessa Aurora era in realtà la stessa fanciulla che aveva incontrato nel bosco e che lo aveva fatto innamorare. Egli si chinò e la baciò sulle labbra. Lei aprì gli occhi e sorrise. L'incantesimo di Malefica era rotto. Ben presto, l'intero castello si risvegliò e si diede inizio ai festeggiamenti per il matrimonio del principe Filippo con la principessa Aurora. E fu così che la bella addormentata e il suo vero grande amore si sposarono. E da allora vissero insieme felici e contenti per tanti, tantissimi anni.